Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi più che mai ho bisogno di voi perché dobbiamo preparare insieme la ricetta ideale per un 2010 con i fiocchi, che per noi significa un anno all'insegna dell'essere e del benessere. Organizziamo un po' la puntata come una specie di portateco, quelle cene tra amici in cui ciascuno porta qualcosa di buono da dividere e condividere con gli altri. Noi, devo dire, abbiamo già pensato ad alcuni ingredienti, ma vogliamo una ricetta molto ricca, quindi mettetevi al lavoro, fatevi ispirare dal cuore e dalla mente. Cosa a vostro avviso non deve mancare perché l'anno funzioni? Amore, lavoro, fiducia, salute sicuramente, resistenza e poi affetti, sorrisi, buon umore, sincerità. Le altre parole della lista però dovete aggiungerle voi, oppure scrivetemi anche quella che sta in cima alla vostra lista personale. Potete farlo al 349-238-6666 o potete naturalmente chiamarci al nostro numero verde 824-0024. È un po' un gioco di passaparola quello che vi propongo oggi. Costruiamo insieme il vocabolario delle parole che vogliamo ci accompagnino nell'anno nuovo. In studio con me c'è il dottor Franco Confalonieri, che è una garanzia. Dottore, stiamo festeggiando sempre le vigilie. Ha visto, siamo passati dal venerdì al giovedì, vigilia di Natale, vigilia di Capodanno. Beh, è un bel modo di festeggiarle per me, spero anche per gli ascoltatori, che saluto tutti. E poi devo dire che lei oggi è in ottima compagnia, perché abbiamo Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, quindi è contornato da donne. E Nicoletta alla conduzione. E sono qua. Sì, senta, lei, per lei com'è stato questo 2009? A parte i venerdì, che sono state veramente delle giornate luminose, ricaricanti, com'è andato? Ma fra le varie parole che citavate prima, se dovessi definirlo con una parola, quella di resistenza mi sembra la più appropriata. È stato un anno in cui abbiamo dovuto tirare fuori questa qualità che abbiamo sia a livello fisico sia a livello mentale, proprio per combattere varie difficoltà, varie esigenze, varie problematiche, e ricominciare ogni giorno convinti che se si vinceva la piccola battaglia di quel giorno, probabilmente si era pronti a vincere anche quella del giorno dopo. Perché se si guardavano tutte insieme, l'obiettivo sembrava davvero difficile. Oggi abbiamo chiuso con le battaglie del 2009 e siamo pronti a ricominciare con quelle del 2010. E però ci siamo anche ritagliati qualche momento bello, piacevole, gratificante. Quindi un bilancio positivo. Sì. E dato che noi siamo abituati, anticipiamo, noi di solito diamo consigli a chi pratica attività sportiva il venerdì, oggi è una giornata un po' particolare, ma un consiglio per i nostri ascoltatori che sono abituati a lavorare sulla loro resistenza, perché sono degli sportivi amatoriali. Lo sport in questo senso insegna molto, proprio come mi rifaccio a quanto diceva lei prima, ma anche a chi invece lo sport lo pratica da seduto sul divano, ai pigri. Sì, allora direi proprio due consigli molto semplici e molto pratici. Per chi fa già tanto sport, vorrei dare un consiglio un po' controcorrente. Provate a dare un po' meno spazio allo sport nella vostra vita, perché mi rendo conto che sempre più gente sta diventando dipendente, soprattutto in un'epoca di difficoltà, dall'attività fisica, dal rapporto con l'attività fisica, dai compagni con cui la fa e dai risultati che ottiene. Quindi provate a ricollocarla dandogli un po' meno spazio, sia in termini di tempo sia in termini di emozione. Provate a riscoprire qualcosa di diverso dallo sport, che sia il leggere, che sia il cinema, che sia il teatro, che sia soprattutto la famiglia o gli amici. Quindi facciamo un anno di compensazione, come si dice in termini sportivi, in cui si riduce il carico, in cui si riduce il lavoro, e vedrete che poi al prossimo appuntamento tra un anno probabilmente mi ringrazierete. Per chi invece, finisco, bravo, rapidamente, non fa sport, e io mi metto in questa categoria, il consiglio è: proviamo a cominciare meno difficile di quello che sembra. Cioè il passo più difficile è davvero cominciare. Però cominciamo con molto poco e vedrete che subito si scatenerà quella dipendenza tipica da esercizio fisico e da sport che può diventare grave per l'amatore incallito, che poi ci consentirà di continuare con molta facilità. Quindi il consiglio è proviamo anche con molto poco, proviamo una volta alla settimana per un'oretta e vedrete che cominceremo tutti insieme, io e voi, a diventare dipendenti. Allora, mi state, vi ringrazio, già scrivendo gli ingredienti del 2010. Francesco da Verona ci scrive la fortuna e ci augura buon anno. Beh, questo ce l'auguriamo tutti. Grazie Francesco, mentre Al da Novara ci scrive Stampatello, accogliere l'altro. Dottor Confalonieri. E questo diciamo che sarebbe davvero importante, anche perché siamo in un tempo in cui davvero questo concetto di accoglienza sembra quasi sparire. Siamo sempre più tutti autocentrati e sempre meno disposti ad accogliere l'altro, indipendentemente da chi sia l'altro, sia un figlio, sia una moglie o sia un diverso, un extracomunitario. Quindi direi davvero che questo è un consiglio, al di là di tutto, importante per un essere, un benessere globale, quello sì, a cui tutti noi tendiamo. Perché chi accoglie sta meglio. Esatto. È proprio una cosa, e c'è anche un lato, se vogliamo, egoistico di questa cosa. Certo. Perché io vi voglio leggere un messaggio di Gualtiero. Ieri abbiamo saputo che il nostro piccolo fagiolino, dopo poche settimane, ha cessato di vivere nel grembo della mamma. Per il 2010 tanta serenità, non dando per scontato che la salute è il bene più prezioso che abbiamo. Un abbraccio a Gualtiero. E lei ha parlato di attività sportiva, di resistenza, di affrontare passetto per passetto la montagna, ecco, senza vederla tutta davanti, come una maratona. Quindi, da fare chilometro per chilometro, come una piscina da affrontare vasca per vasca, senza pensare a quanto dobbiamo fare. Questo aiuta e secondo me ci fa imparare e ci fa apprezzare, coltivare la fiducia in noi stessi. Io direi che la fiducia, questa parola che tante volte dimentichiamo, perché è tante volte la fiducia nei nostri confronti, anche nei confronti dell'altro, rifacendomi ad accogliere, si incrina, è sicuramente una parola che io metterei nel nostro pentolone per la ricetta del 2010. E parliamo di fiducia insieme al professor Perna, che è un grande amico di Essere Benessere. Buongiorno professore. Ciao Nicoletta e tutti gli ascoltatori. Direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive all'Università di Maastricht, c'è molto di emotivo anche nella fiducia. Assolutamente sì, direi che correggerei una parola, più che resistenza, dobbiamo parlare di resilienza. Che differenza c'è? C'è il fatto che se noi siamo in grado di affrontare lo stress e le difficoltà che si presentano, questo non solo ci permette di difenderci, ma addirittura ci rafforza. Quindi un 2009 così difficile per chi l'ha affrontato permette di diventare molto più forte nel 2010. Quindi la fiducia in noi stessi vuol dire aver fiducia nelle nostre capacità di reazione, nella mente, nel corpo, in tutta quell'esperienza che nasce dalla storia dell'uomo, che gli permette di essere veramente, di poter viaggiare col pilota automatico. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi, più fiducia nella nostra mente e nel nostro corpo. Quindi pensare un po' di meno e agire un po' di più. Con un esercizio, professor Perna, lei l'ha già praticamente detto, no? Pensare un po' di meno e agire un po' di più. Tante volte noi ci facciamo bloccare da pensieri negativi e non affrontiamo le cose, che tante volte sono più facili di quello che potrebbero sembrare. Ma professor Perna, ci saluti con un consiglio. Ma il consiglio è quello che ha detto, lo ribadiamo, è importante. Pensate di meno, agite di più. Questo vuol dire abbiate più fiducia in quello che potete fare, nella forza del vostro corpo e della vostra mente. Quindi è proprio una raccomandazione, cerchiamo di non fossilizzarci su pensieri, rimuginazioni, evitiamo di perdere tempo nel riflettere troppo sulle cose, cerchiamo di dar fiducia al mondo e la fiducia a noi stessi. Quindi agite. Agiamo un po' di pancia, dottor Confalonieri. Col professor Perna avevamo fatto proprio una puntata sulla decisione, si ricorda professore? Sì, assolutamente. Ecco, e quindi andiamo un po' di petto, di pancia, dottore. Ma lo trovo formidabile questo consiglio, proprio perché tanti di noi, credo, sperimentano l'ansia e l'angoscia notturna. La notte è proprio un momento in cui si pensa e non si può agire. Poi la mattina, quando si comincia a fare, tutto diventa più facile. Quindi anche in questi termini direi che questo consiglio è fondamentale. Facendo, il problema, se lo pensiamo un po' meno, diventa minore. Andiamo a Roma. Ci aspetta Roberto. Roberto, buongiorno. Le passo la palla. Che cosa mettiamo, buongiorno, nella nostra ricetta per un 2010 all'insegna, buongiorno, dell'essere e del benessere? Buongiorno e auguri a tutti. Auguri. Ma io non so se sono completamente in sintonia con la trasmissione, però io penso che per star meglio con se stessi dobbiamo fare di tutto per star meglio con gli altri, e quindi le mie parole sono rispetto e tolleranza. E io ritengo che assistiamo sempre più, soprattutto in televisione, a spettacoli indecorosi con scontri verbali e no, e che sono veramente deprimenti. E credo che stare appunto con gli altri ci aiuta a riflettere meglio e a trovare il meglio di noi stessi e a dare il meglio di noi stessi, quindi rispetto e tolleranza. Roberto, infatti noi parlavamo di accoglienza, accogliere l'altro, è stato proprio uno dei primi messaggi che abbiamo dato in trasmissione. Roberto si allinea, dottor Confalonieri? Sì, direi che questo messaggio risulta particolarmente comprensibile a chi fa sport e fa agonismo a tutti i livelli, nel senso che lo sport porta automaticamente a rispettare l'avversario, a dare importanza all'avversario e a capire l'avversario, quindi a confrontarsi con gli altri con una modalità assolutamente evoluta. Quindi da questo punto di vista, noi che tutte le settimane parliamo di sport, parliamo di esercizio fisico, ci troviamo perfettamente in sintonia con Roberto. Lo sport anche a livello amatoriale ci insegna a rispettare l'altro indipendentemente dal livello agonistico e quindi indipendentemente da ciò che rappresenta. E poi, professor Perna, vengo di nuovo prima di salutarla da lei, perché tante volte lei ha suggerito l'attività sportiva proprio perché per questo potenziale terapeutico, direi, perché l'attività sportiva è veramente un toccasana anche per la nostra mente, quindi per il nostro equilibrio. Proprio un messaggio da Peter di Trento ci dice equilibrio, e quindi però anche le scienze lo confermano. Ma direi, l'abbiamo detto tante volte, esercizio fisico aiuta la mente, aiuta a combattere l'ansia, migliorare l'umore e così via. Però io tornerei sul discorso degli altri, perché è importante ribadire che la fiducia negli altri, la capacità di fare con gli altri, quindi agire con gli altri, ci permette di trovare quel senso comune che attualmente manca. Certo, diventare squadra. Diventare squadra, esattamente. Nello sport di squadra, io ho amato molto alcuni sport di squadra fatti, e devo dire che noi dobbiamo insegnare molto agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti devono insegnare molto a noi, cioè loro insegnano fin da piccoli a fare l'attività di squadra, anche dure, anche difficili, ma permettono di far comprendere ognuno come l'altro sia importante. Mi ricordo, e concludo così, io giocavo a football americano e sapevo benissimo che io ero quello che faceva gol con la palla, quindi quello sui riflettori, ma il signore davanti a me che doveva difendermi era quello oscuro. Se lui si spostava di un millimetro io venivo buttato a terra. Quindi anche il gregario diventa essenziale per il nostro successo. Questo è importante per farci sentire di parte di una comunità e sentire il nostro successo come un successo che dipende dagli altri. Grazie al professor Perna, tanti auguri, prof. Grazie a tutti quanti, un augurio di un 2010 felice, sereno e vissuto con gli altri. Pieno di fiducia. Sì, assolutamente, assolutamente. Grazie, professore. E a proposito di squadra, in linea con noi abbiamo una grande donna che tiene a bada una squadra ogni anno. È in linea con noi, c'è Milly Carlucci. Milly, buongiorno, auguri. Ma sono auguri davvero proprio affettuosi, eh? Senti, Milly, ti chiedo subito la parola che vorresti portarti nel nuovo anno. Serenità. Serenità sicuramente, perché ne abbiamo tutti quanti bisogno. Se sei sereno vuol dire che non hai problemi in famiglia, vuol dire che insomma nel lavoro lotti ma c'è una strada tracciata, insomma serenità. Ma poi un po' per tutti, per i nostri rapporti interpersonali spesso così astiosi, tesi, una serenità più diffusa. Senti, Milly, tu tornerai su Rai 1, io sono molto contenta perché ti guardo sempre il 9 gennaio con la nuova edizione di Ballando. Sai che io sono sempre in cerca di qualcuno che mi faccia ballare, ma non lo trovo mai. È vero, sono dei legni. E stavo pensando proprio alle parole che abbiamo detto prima, l'accoglienza, la fiducia. Il ballo insegna molto questo anche, perché certo. Nella coppia significa proprio affidarsi a qualcuno, nel caso della donna, a qualcuno che ti guida. Nel caso dell'uomo, avere qualcuno tra le braccia che, per esempio nel caso di una competizione, fa metà di quello che è il tuo risultato. quindi ballare è proprio veramente lavorare insieme, vuol dire diventare sinergici, vuol dire far battere insieme il cuore e le emozioni. Senti Mille, mi è venuta in mente, oltre a preparare una ricetta con tanti ingredienti, ne stanno arrivando tantissimi anche via SMS, poi voi ne portate sempre nuovi, di chiedere ai nostri amici da casa qual è la cattiva abitudine che vorrebbero abbandonare, dimenticare, e la buona abitudine che invece vorrebbero recuperare o imparare. Tu hai un'abitudine di cui vorresti sbarazzarti? Ma io diciamo un'abitudine da lavoratore delle ore piccole della notte, come siamo noi, che è quella di bere caffè in quantità, che non è proprio una cosa salutare, per la verità. Sì, quando si eccede troppo. Il troppo è sempre... No, infatti, ogni anno mi propongo di limitarmi e poi non ce la faccio, perché poi veramente è un lavoro certo. Così stressante, ma poi così veramente prolungare la notte, no? Che ci scivoli inevitabilmente, e quindi questo sarà il mio ennesimo proposito per il 2010. Bene, allora Milly, ti vedremo il 9 di gennaio ballando. Insomma, devo dire che tante volte diciamo siamo sportivi da divano, no? Però sì, ecco, noi guardando le coppie che si cimentano in questi balli è come ballare un po' dentro, no? Perché facciamo anche sì. Il dottor Confalonieri si appassiona è molto appassionato al ballo, anche se so che è un bel legnetto, pessimo ballerino, direi un tronchino. Ne abbiamo parlato spesso proprio perché è un modo diverso e più facile per avvicinarsi all'esercizio fisico, al benessere, quindi assolutamente favorevoli a questa esperienza, a questa trasmissione. Senti Milly, quindi approfitto di te per augurare ai nostri amici da casa di iniziare l'anno ballando ma anche metaforicamente, certo. Cioè, scendendo in pista, no? Avendo il coraggio anche di lasciarsi alle spalle piccoli complessi, piccole remore, piccoli legacci così che ci impediscono di essere veramente noi stessi, di essere liberi, di essere quello che noi vogliamo essere. Scendiamo in pista e muoviamo le nostre gambe, perché poi vivi meglio se ti lasci anche andare qualche volta e se eviti di essere condizionato dal giudizio degli altri. Tante volte noi pensiamo che gli altri ci guardino con un occhio malevolo, mentre invece semplicemente ci stanno guardando, né certo. Malevoli né non malevoli, quindi facciamo, andiamo, buttiamoci, che saremo più contenti. Grazie Milly Carlucci, un abbraccio. Grazie, un abbraccio, auguri. Andrà bene Milly, andrà bene, sarà un anno magnifico, ma chiediamo anche come sarà l'anno per quanto riguarda la nostra salute, le ricerche, ci sono tante persone che lavorano per cercare la causa di malattie, per farci stare meglio, nuove terapie, e quindi io sono molto contenta perché in linea con noi c'è il professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Come andrà? Andrà come il 2009. Quindi è andato molto bene. No, io vorrei dirvi che non mi aspetto delle cose straordinarie, perché la medicina non funziona così. Noi abbiamo oggi delle cose meravigliose che erano impensabili. Pensate solo al fatto che tempo fa l'ulcera dello stomaco voleva dire ricovero in ospedale, intervento chirurgico, post tutti i postumi dell'intervento chirurgico, problemi. Oggi, da quando si è capito che questo è dovuto a una infezione, ecco che il famoso Helicobacter pylori, si prende un antibiotico e si guarisce a casa. Ecco, questa è una cosa straordinaria. Le leucemie dei bambini una volta si morivano oggi tutti. Oggi il 90% dei bambini con una leucemia guariscono. Ma non succede dall'oggi al domani. Sono ricerche che hanno bisogno di tempi lunghissimi. E quindi il 2010 sarà un anno in cui perfezioneremo alcune cose che sono cominciate tantissimi anni fa. Noi parliamo tanto di cellule staminali, ecco, adesso abbiamo la possibilità di avere cellule le quali diventano simili a quelli embrionali partendo dalle cellule della cute dello stesso ammalato. Quindi pensate, una cosa straordinaria, però quando queste cellule cominceranno a curare le malattie? Tra tanti anni. Ci vuole tempo e quindi tempo. E fiducia ci nella vuole ricerca. Tempo, ci vuole fiducia nella ricerca, bisogna lavorare sempre, ma i passi avanti sono davvero tantissimi. Però non succede quasi nulla subito, Abbiamo parlato per anni di terapia genica, sono 20 anni che parliamo di terapia genica, sostituire un gene malato con uno sano, per curare tantissime malattie. Sta succedendo, è cominciato per certe forme di cecità, è cominciato per certe forme di malattie del polmone, è cominciato a Milano per certe immunodeficienze, siamo proprio agli inizi, però incominciamo a vedere che una cosa che fino a tempo fa si pensava non riusciremo mai, perché ci stiamo lavorando da 20 anni, invece pian pianino ci si arriva. Quindi fiducia e speranza nel futuro. Professor Remuzzi, certo. Grazie, l'abbraccio, grazie. Buon anno. Grazie, un abbraccio ideale a tutti. Grazie. Grazie. Nella mia lista felicità, con questo significato, ricercarle in ogni secondo della nostra vita, anche nei momenti più negativi, ci scrive Matteo. Dottor Confalonieri. Tante volte, anche parlando di attività sportiva, parlando anche con grandi campioni che sono arrivati ad avere proprio risultati magnifici, loro ci hanno detto, ecco, il vero campione si vede nei momenti difficili, quando stringe i denti e va avanti. Certo, magari non è proprio la felicità, però è la positività nel momento difficile, cioè la crisi, la difficoltà, il risultato mancato, tante volte ti porta a capire qual è il tuo limite o dove hai sbagliato e quindi a ricominciare per arrivare ancora più in alto. Quindi diciamo che nel momento di difficoltà, nel momento di tristezza, nel momento di paura, non è facile essere felici, però è possibile essere positivi, quindi ripartire da lì per capire dagli errori e dalle criticità emerse come fare le cose meglio, soprattutto con questa filosofia di fondo che mi sembra emergere dalla trasmissione, anche da quanto detto così bene dal professor Remuzzi, che qualsiasi cosa ha bisogno di tempi lunghi, ha bisogno di una fatica positiva, bella, entusiasmante, ma quotidiana per realizzarsi. Le cose non avvengono così all'improvviso. Io direi che è arrivato il momento di aggiungere un altro ingrediente che è fondamentale e che, se vogliamo, è già contenuto in piccole dosi nelle parole di cui abbiamo parlato sinora, che sono la fiducia, il fatto di continuare a resistere, che è la curiosità. E ne parliamo con il professor Piero Barbanti, che è tornato a trovarci, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, io direi che per noi umani la curiosità è fondamentale. Perché serve? Perché ci è utile? Ci fa proprio andare avanti? Fa parte della vita? Sicuramente la curiosità è una emozione, direi un interesse emotivo, che ci costringe ad immergerci nel mondo sbilanciandoci in avanti. Questo è l'elemento maggiormente importante. Da un punto di vista del significato, la curiosità in noi vuol dire esplorare in maniera dinamica e portare il cervello ad essere plastico. Ovviamente ricado nel mio mestiere. Eh beh, certo. Il cervello rimodella le sinapsi, fa una sorta di maquillage sinaptico, quindi supera quell'ostacolo della staticità che è l'elemento complice dell'invecchiamento e anche dell'umore depresso. Noi nasciamo curiosi, il bambino è curioso, la donna che notoriamente ha un metabolismo cerebrale più attivo, più alto di quello dell'uomo, è curioso così come è l'artista. Ma l'elemento che mi piace sottolineare è che la curiosità ci gratifica, non solo ci fa bene, ma ci fa sentire bene. Questo perché nel nostro cervello, in un'area cruciale chiamata tegmento ventrale, si libera la dopamina, che è la sostanza della gratificazione del piacere. Quindi un interesse emotivo che ci fa esplorare il mondo, ma ci dà piacere in itinere lungo il viaggio. Professor Barbanti, ci eravamo interrotti sul più bello, quindi la curiosità ci serve, ci aiuta, ci fa del bene, ci fa stare bene. Come possiamo continuare a mantenerla? Sì, ci sono due requisiti: avere il cuore attivo e libero e avere la mente in fermento. Proviamo però per un attimo a immaginare la curiosità come se fosse il sole, vedere le condizioni nella vita in cui sembra che ci abbia abbandonato. Il primo caso è quando la curiosità tramonta, in realtà sì, può tramontare, il caso della senilità, badate, non della demenza, la senilità, il restringimento dell'orizzonte di esperienze che il soggetto piano piano va a trovare. secondo luogo il lutto. Ci sono dei casi in cui però la curiosità si eclissa, ed è il caso della depressione. Non a caso il sentimento depressivo è dominato da questa presentificazione della vita, una vita nebbiosa in cui non c'è un passato e non c'è la curiosità per il futuro. Però attenzione, noi spesso voltiamo le spalle alla curiosità. In questo caso è quello che capita a noi in unioni sentimentali sbagliate, in frequentazioni non appaganti, in occupazioni lavorative che siano alienanti. Quindi se è necessario avere cuore libero e mente in fermento, ricordiamoci che un po' di colpa a volte ce l'ha anche lo stile di vita e l'impostazione esistenziale che ci troviamo ad avere. Professor Barbanti, salutiamoci quindi con un consiglio ed un augurio. Sì, l'auspicio direi di dare le dimissioni, da che cosa? Dalla vita come mestiere, che è il nostro principale difetto. Io ho un caro amico che dice, ma la mattina mi metto un po' la tuta da operaio, e fa tutt'altro nella vita ovviamente come mestiere. Quindi licenziarsi da questo tipo di impostazione deve essere un auspicio importante, come quello di ascoltare il nostro ritmo, che è un ritmo cerebrale che noi possiamo sentire solo stando in silenzio, cioè solo alienandoci, questa volta in senso positivo, da quello che la vita quotidiana invece tenderebbe a farci fare. I mezzi quali sono? Per esempio rispolverare vecchi hobby che possono avere un rapporto ad esempio con l'ambiente, con la natura. Io sono appassionato di sci, potrebbe essere quella una buona via. Il secondo, vecchie frequentazioni, amici, magari di un lavoro precedente o magari della scuola, anche questo è un consiglio utile. In questa maniera levare le ancore, quindi la curiosità diventa un fenomeno autocatalitico, quindi che si automantiene, e in questa maniera noi potremmo avere l'auspicio di andare incontro a due situazioni utili. Da un lato riscoprire la curiosità eterodiretta, quindi la curiosità diretta verso il mondo come accrescimento, come emozione continua. La seconda, la curiosità autodiretta, quindi un esercizio conoscitivo e un incremento dell'autoconsapevolezza. Questo è il migliore elisir per un buon anno nuovo. Professor Barbanti, grazie, grazie. Faremo sicuramente tesoro delle sue indicazioni che ritornano. In effetti mi sto rendendo conto che gli ingredienti che abbiamo messo nel nostro pentolone per questa ricetta del 2010 sono legate da un filo rosso. E insomma, riprenderemo un buon passo. Professor Barbanti, grazie di cuore, un abbraccio, buonissimo anno. Arrivederci, buon anno a lei e buon anno a tutti. E in linea con noi non poteva mancare il nostro, direi, allenatore emotivo, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, tu sei stato ad ascoltare in silenzio tutta questa, i preparativi di questa bella ricetta del 2010. E a te do il compito così di fare, se vuoi, un piccolo bignamino e di trovare quello che, abbiamo detto, lega tutte queste parole che sembravano un po' buttate a caso. C'è stato questo portateco, abbiamo parlato di fiducia, di accoglienza, di resistenza. Della fiducia nella ricerca, ma anche negli altri. Il professor Barbanti ci ha fatto fare questo viaggio nella curiosità, e quindi la curiosità verso l'altro, che presuppone l'accoglienza anche dell'altro, la curiosità verso noi stessi. Alberto. Ma direi che li hai proprio già riassunti molto bene gli ingredienti da buttare nel nostro pentolone per andare incontro all'anno nuovo. Direi che la parola chiave, forse, che abbiamo sentito di più è la parola fiducia. Fiducia in noi stessi e fiducia negli altri, e la fiducia effettivamente è una di quelle doti che quando ce l'hai ti rende aperto agli altri e accessibile agli altri, quindi dai fiducia perché gli altri hanno fiducia in te, e direi che è una buona corazza, una buona cosa di cui dotarsi. La curiosità mi sembra un regalo straordinario che ci possiamo fare nell'anno nuovo. Probabilmente ogni giorno, ogni settimana, ogni mese avrà qualcosa da regalarci se noi sappiamo andare a cercarlo, e quindi muoversi proprio come fanno i bambini, che sono un po' esploratori della vita e del mondo, andare alla ricerca di ciò che c'è di nuovo e che deve essere comunque trovato, perché non ti piove dal cielo. Potrebbe essere un modo ideale per avvicinarsi con un nuovo spirito all'anno nuovo. La resistenza credo che ci serva tanto, non sarà possibile trascorrere un anno senza qualche ostacolo, senza qualche avversità, senza qualche difficoltà, e direi che l'atteggiamento giusto invece è quello di molti maledicono la vita quando succede qualcosa di brutto, invece direi proviamo a vedere dentro di noi quali sono le doti che ci danno la possibilità di scalare una montagna che ci sembra invece insormontabile. Devo dire che siamo usciti da un anno, il 2009, dove la cafoneria, il cattivo gusto, la maleducazione spesso hanno fatto da padrone. Sono stati proprio all'insegna delle notizie, spesso anche da prima pagina dei giornali, per cui direi un pizzico di buon gusto e direi magari anche quella sana, ingenua maleducazione dei bambini, però quella che si tinge di stupore, quella che dice le parole giuste magari in modo colorato per raccontare cose difficili, che è ben diversa invece dalla maleducazione e dall'ostentazione. E alla fine direi che la cosa, usiamo proprio una legge della psicologia, che è quella del contagio emotivo. Imparate a sorridere e vedrete che arrivano tanti sorrisi anche verso di voi e nella vostra vita. Dottor Confalonieri, ci fa lavorare questo Pellai, sì, devo dire, porta un bel allenatore. Mille suggestioni, molte legate al mondo dei bambini, che è un mondo a cui anche credo Alberto Pellai sia molto vicino, perché non a caso la fiducia, la curiosità sono tipiche del bambino e poi tendiamo un pochettino a perdere. Però c'è qualcosa che non è tipico del bambino, ma è tipico invece dell'anziano e soprattutto degli anziani di adesso. Non so se sarà ancora tipico degli anziani che verranno, ed è l'educazione, ed è il rispetto, ed è quel porsi un pochino in un angolo con dignità. Ecco, la parola dignità. Io credo che troppo raramente, forse anche noi stessi, anche nelle nostre trasmissioni, abbiamo messo al centro l'anziano, molto più spesso abbiamo messo al centro il bambino. E allora, ascoltando Alberto, proprio mi è venuta in mente questa nuova parola, la dignità, contro la cafoneria, la volgarità, la mancanza di buon gusto che ha caratterizzato il 2009, magari imparata proprio dalle vecchie generazioni, che potrebbero tornare al centro. E aggiungerei questo ingrediente al pentolone che stiamo facendo. Molti dei nostri ascoltatori infatti mi scrivono la saggezza. Esatto, esatto. Ecco, e io tornerei, per me è un grande saggio, oltre che un amico che mi scalda sempre il cuore e mi indica la strada. In linea con noi è tornato a trovarci Don Mazzi. Ciao Don Mazzi. Ciao, ciao, buona giornata. Ci siamo sentiti il 24 sì, e ci sentiamo il 31. Ecco. Dimmi tutto. Perché al 24 abbiamo fatto gli auguri per un Natale, no? Sì. All'insegna, tu hai detto mettete di tenerezza. Ecco, di tenerezza, mettete il lavoro al secondo posto, credete nei sì. giovani. Sì. Adesso io penso che queste siano già tre ingredienti che ci portiamo, tre indicazioni che ci portiamo, sono valide per il 2010. Vogliamo un 2010 rispettoso. Vogliamo un 2010 che ci insegni ad accogliere l'altro, a tirare fuori le nostre doti buone, anche a saper resistere a quello che magari di negativo la vita ci offre e siamo costretti a farlo. Don Mazzi, a te la parola, perché tu riesci sempre in modo sintetico ad arrivare dove tante parole che noi usiamo non arrivano e si disperdono. Ma intanto vorrei dire a tutti questa notte che spendono un po' di meno e ricordino tanta gente che sta soffrendo. Forse anche una bottiglia di champagne di meno, oppure un dolce di meno. Credo che potrebbe essere anche questo un gesto subito di solidarietà. Questo la mi piace. La seconda cosa, vorrei che fossimo leggermente più ottimisti. Perché il pessimismo non serve a nessuno, soprattutto noi adulti. Noi adulti dobbiamo essere non solo saggi pazienti, ma anche ottimisti. Cioè riuscire a vedere in ogni giorno, anche nel giorno più burrascoso, qualcosa di bello, va bene? Non credo che anche nelle notti più burrascose una stella ci sia sempre da qualche parte. Allora vorrei augurare a tutti ogni sera, va bene, prima di addormentarsi, va bene, di pensare che cosa di buono hanno fatto e la stella che hanno incontrato durante la giornata. Soprattutto se sono padri e se sono insegnanti, se sono politici, cioè se hanno in mano in qualche maniera il mondo dell'educazione. Si educa con l'ottimismo e Don Bosco ti ha insegnato queste cose, va bene? Certo. Ti spiego? È vero, Don Mazzi, hai ragione. Questo della stella la portiamo nel cuore. Ogni giorno cerchiamo... Soprattutto noi adulti dovremmo essere più ottimisti dei giovani. I giovani possono anche spaventarsi, l'adulto mai. è come capitano della nave, più c'è burrasca più il capitano deve essere saggio e paziente, così anche noi. Don Mazzi ti abbraccio. Ciao anche grazie a te. Buon 2010 a tutti, buon anno a tutti, grazie. Allora, un commento a caldo, perché Don Mazzi ci lascia sempre un po' senza parole, perché ci scava dentro, eh? Cioè dice delle cose che tutti possono fare che spesso non facciamo. Alberto. Sono colpito, mi sembra che l'immagine della stella sia davvero un'immagine reale, bella, di fianco il fuoco artificiale stasera probabilmente coprirà la luce e il colore delle stelle, ma dietro a quei fuochi artificiali c'è la bellezza proprio della vita in tutta la sua multidimensionalità, quindi dietro a un fuoco artificiale che esplode ma in un secondo è finito c'è una stella che dura sempre. Dottor Confalonieri, lei riesce ogni giorno, se lo propone, di cercare questa stella? Io penso che questa sia veramente quel tocco, perché nelle ricette ci sono tanti ingredienti e poi ci sono le erbe aromatiche, le sfumature. Questa della stella è quello che dà un sapore diverso a tutti gli ingredienti che abbiamo messo nel nostro calderone. Certamente sì, e c'è un'altra cosa che mi ha colpito molto in quanto diceva Don Mazzi, cioè questo dovere quasi dell'ottimismo da parte delle persone più anziane, da parte degli educatori, da parte delle guide, perché siamo molto più spesso portati a pensare che ottimista per definizione debba essere il giovane, debba essere chi non ha ancora sperimentato le difficoltà quotidiane sulla propria pelle, mentre l'anziano, l'educatore possa essere anche un po' più cinico, un po' più disincantato. E quindi questa è una bella sfida, l'ottimismo che viene dall'esperienza e non l'ottimismo che viene dall'incoscienza. Credo che sia una sfida davvero importante e significativa che ci ha lanciato Don Mazzi. E Beatrice ci scrive: finalmente è stato sdoganato il pensiero positivo. Sentendo la nostra trasmissione, Beatrice appunto ha fatto questo commento che mi fa piacere, il pensiero positivo ne abbiamo bisogno ogni giorno. Dottor Confalonieri, allora sei ispirato? Sì, mi sono ispirato. Le strade, traffico, le attiva pensieri. Sì, cioè, tornerei proprio nel mio ruolo più proprio, quello di esperto di sport, di esperto di allenamento, di esperto di esercizio fisico, per questa riflessione finale, proprio perché lo sport può insegnarci molto anche nella vita quotidiana. Nello sport si parte sempre da quanto si è fatto, cioè dall'esperienza degli anni precedenti, dai risultati positivi o negativi costruiti negli anni precedenti. E quindi qui ci sta il concetto di esperienza. Valutiamo ciò che si è fatto e se ha funzionato, se non ha funzionato, che cosa ha prodotto. E poi lavoriamo in funzione di un obiettivo, in funzione di obiettivi intermedi e in funzione di un obiettivo finale, costruendo la realizzazione di questo obiettivo giorno per giorno attraverso una piacevole fatica quotidiana. Perché lo sport è piacevole, però è anche fatica. E la piacevole fatica quotidiana ci porta a costruire l'obiettivo intermedio e l'obiettivo in finale. Credo che questo che sta alla base della metodologia d'allenamento possa essere anche un buon proponimento per tutti all'inizio di questo nuovo anno. Poniamoci obiettivi ambiziosi, cerchiamo di essere ottimisti, ma partiamo dalla nostra esperienza e costruiamoli step by step, un passo dopo l'altro. Alberto, gli diamo un bollino blu, due bollini blu. È diventato il vero allenatore emotivo della trasmissione, gli passo il testimone. Ieri parlavamo proprio di invidia, ma è un'invidia buona. È stato bravo, dottor Confalonieri, devo dire che vedi che a frequentare Essere Benessere siamo migliorati. Alberto, ti saluto, un abbraccio. Buon anno a tutti. Buon anno. E direi, dottor Confalonieri, si dice in zona Cesarini, no? Nel calcio. Quando qualcosa succede all'ultimo, negli ultimi minuti. E infatti non devo dire negli ultimi minuti, ma negli ultimi giorni, prima che la nostra iniziativa Te la canta e la suono si conclude, il 9 di gennaio prossimo, è arrivato un nuovo video. Andiamo subito a sentirlo. Il giornale leggo che un'influenza nuova c'è, è un virus strano ma sembra che può contagiare anche se è un'influenza normale che però può far male, ma stai tranquilla e sai perché, qualche consiglio è pronto per te. Lavati spesso messo con cura le mani, sta a dire riparati tu, il fazzoletto lo getti nel cesso e la tua stanza aerea di più. È una forma virale che si può contagiare, stai tranquilla e sai perché, già il vaccino pronto per te. Virus suino è pronto il vaccino, con gli anticorpi non infetti più. È una canzone che fa prevenzione, HN1 non fai più paura tu. E in linea con noi abbiamo il dottor Danilo Sirigu, radiologo ecografista all'ospedale di Brozzo, chitarrista, autore dei testi e cantante del gruppo Non Solo Ippocrate. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Ma in linea con noi abbiamo un altro componente del gruppo, è il dottor Pietro Iannelli, che è dermatologo. Buongiorno. Buongiorno anche a voi. Sempre nello stesso ospedale, e lei suona armonica e chitarra? Esatto. Io vorrei prima di commentare il vostro videoclip, che devo dire che stava canticchiando anche il dottor Confalonieri, perché balla poco ma ha il senso del ritmo, insomma seduto sembra Fred Astaire, poi se lo alzi non so, la gamba lì insomma non si muove, però insomma va bene. È una grande soddisfazione. Ecco, Non Solo Ippocrate, sì. Un gruppo di medici. Ci sono anche tecnici di laboratorio che sì. Fa canzoni. Ci racconti, perché siete fortissimi. Ma la ringrazio dei complimenti, effettivamente per noi è una grande soddisfazione. Sì, il gruppo è un gruppo aperto, ci sono diversi medici, ci sono tecnici di radiologia, fisioterapisti e poi anche siamo sostenuti comunque anche da musicisti che comunque ci aiutano a tenere alta la qualità delle nostre prestazioni. La cosa bella è che comunque noi riusciamo attraverso la musica a fare anche qualche cosa di utile. Perché voi fate prevenzione ma anche volontariato, solidarietà. Sì, c'è esatto, un ospedale nelle Filippine. Abbiamo vostro. Creato, ci racconti, sì, trovo bellissimo. Di un'associazione sarda, abbiamo creato un villaggio Sardegna con delle scuole e anche un poliambulatorio dove noi ci recchiamo ogni anno e così portiamo la nostra esperienza di specialisti all'interno di questa realtà. Stiamo parlando forse dell'isola più povera di tutte le Filippine, l'isola di Samar. Abbiamo costruito appunto grazie alla solidarietà di tanti sardi attraverso le adozioni a distanza, ma anche attraverso queste manifestazioni che noi proponiamo con la musica, siamo riusciti ad avere appunto diversi fondi per poter sostenere questa iniziativa. E avete fatto tanti brani ispirandovi a delle canzoni già di successo. Ad esempio, ho letto che 24.000 baci sono diventate 24.000 bianchi. Sì, allora il repertorio che noi portiamo si chiama Clinic Music, cioè riscriviamo determinate canzoni con argomenti di medicina, quindi possono essere malattie, possono essere farmaci, sintomi. E quindi abbiamo un repertorio molto vasto. Sì. Per esempio, le posso dire, a parte 24.000 baci che è diventato 24.000 bianchi, abbiamo altri brani, per esempio La gatta è diventata la gotta, Attenti al lupo è diventata Attenti al lupus e così via. Ce n'è anche uno sull'ernia, vero? Sì, sì, c'è anche Sogno che avrò l'ernia, il famoso brano Sognando California. C'è da dire che noi utilizziamo sì il sorriso, perché il sorriso effettivamente è l'espressione migliore della comunicazione che ci può essere fra le persone. Però dietro questa ironia c'è appunto una motivazione molto seria, che poi è il senso del nostro gruppo, del nome, il Non Solo Ippocrate, è proprio il tentativo di rivalutare la figura del medico, certo. Non soltanto come scienziato, diciamo così, ma anche come persona, come uomo, attento alle esigenze del prossimo. Vi manderò anche il dottor Confalonieri per magari fa un saltino in Sardegna su un altro angolo, no? Dottor Confalonieri. Molto volentieri. Sì, oppure contribuisco un pochino con i testi. Ci proviamo. Testi. La Sardegna è bellissima. La Sardegna la conosco bene, l'esperienza è bellissima ed è una delle tante esperienze in cui i sardi si sono distinti nel mondo proprio per capacità di essere solidali e di penetrare in realtà anche lontane, quindi è davvero una cosa bellissima. Dottor, ringrazio veramente. Dottor Iannelli, il vostro testo è molto, sottolinea molto l'importanza del vaccino. Certo, sì, riteniamo fondamentale questo tipo di aspetto, perché anche come terapeuti dava una grande soddisfazione poter gestire la salute anche con sfruttando dei meccanismi che sono in realtà molto naturali e quindi soprattutto per quanto riguarda le malattie virali in cui non abbiamo grandissime armi, rinunciare al vaccino sarebbe impossibile, soprattutto perché stiamo sfruttando delle vie che già la natura ha immaginato e ha sfruttato in tutta la storia dell'umanità, e noi abbiamo avuto la fortuna di poter ripercorrere questo percorso, diciamo innescandolo al nostro vantaggio nelle situazioni in cui questo si renda necessario. Quindi i medici di Non Solo Ippocrate sono tutti vaccinati contro il virus A? I medici, i tecnici, le loro famiglie, i loro figli, e anche se io faccio il dermatologo e quindi non mi occupo in prima linea di questo tipo di problemi, mi sono confrontato naturalmente con gli amici, con i parenti che mi hanno chiesto dei consigli, e ho cercato di appunto illustrare la validità di questo fenomeno in cui naturalmente non possiamo se non minimizzare i rischi, ma qualsiasi operazione che riguardi la vita ha comunque dei rischi. Quindi io approfitto si tratta di fare un'operazione scientifica, per cui dietro questa operazione dei vaccini ci sono tanti di quegli studi che devono sicuramente tranquillizzare le persone. Allora, io a proposito di vaccino ho preso la palla al balzo per invitare il professor Giovanni Rezza. Buongiorno e bentornato, professore. È caduto di nuovo, vorremmo sentire, perché volevamo fare un commento insieme al professor Rezza sul vaccino, perché ci sono state tanti articoli, l'influenza sta scemando e i vaccini ci sono state tante dosi di vaccino acquistate, pochi medici anche sono vaccinate, insomma, dottor Confalonieri, lo sappiamo. Professor Rezza, l'abbiamo recuperata, buongiorno. Ah, buongiorno. Ecco, io anticipavo, insomma, volevo un commento da lei. Il videoclip di Non Solo Ippocrate punta molto sul vaccino, su cui ci sono state ultimamente numerose, non voglio usare il termine polemica, ma non me ne viene un altro più calzante. Anche polemiche ingiustificate, ma polemiche, certo. Come siamo messi allora? Troppe dosi per poche persone che si sono vaccinate, ma adesso serve, adesso che sembra che il virus ormai sia andato via, insomma non c'è più la paura, no, di questa pandemia. Professore. No, ma guardi, noi abbiamo comprato come paese un numero di dosi più che sufficiente, ma sicuramente meno dosi rispetto ad altri paesi europei, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, proprio perché eravamo stati cauti e sapevamo che per motivi di fattibilità non avremmo potuto vaccinare più di una certa proporzione della popolazione, più del 40%. Chiaramente la campagna vaccinale è andata invece a rilento fino ad ora, sono state vaccinate meno di 1 milione di persone. E c'è anche questa falsa convinzione che questo è un virus che una volta che c'è stato il picco debba andare via. Sì, invece non è così, questo virus che come altri virus influenzali resta nella popolazione, può dare nuove ondate, potremmo avere una nuova ondata anche quest'inverno, ma questo virus potrebbe fare anche come ha fatto l'asiatico, l'Hong Kong, e ripresentarsi nel prossimo inverno e magari con un picco ancora più alto, perché sono virus che tendono ad adattarsi nella popolazione e quindi aumentare la loro trasmissibilità, per esempio nell'anno successivo alla comparsa. Quindi non sappiamo come andrà nel futuro, per cui sappiamo l'importanza di vaccinarsi, soprattutto le persone a rischio. Non dice come mai solo poco più di una persona su 10 a rischio di complicanze si sia vaccinata. Queste sono persone che devono essere vaccinate perché rischiano più delle altre persone. Professor Rezza, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fatto questo commento all'ultimo, a questo punto, videoclip della nostra iniziativa. Questa iniziativa, perché mi sembra molto appropriata. Grazie, grazie professor Rezza. Grazie anche ai musicisti, autori di non solo Ippocrate, al dottor Danilo Sirigu e al dottor Iannelli, ne cito solo due. Grazie. Grazie a voi per l'iniziativa encomiabile. Andate a vederli e a votarli sul sito di Radio 24, e poi è un modo anche, no, per imparare a memoria le regole della prevenzione. Dottor Confalonieri, noi ci vediamo il prossimo anno. Prossimo anno, più vecchietti di un anno. Ancora un po' più in forma. Ancora un po' più in forma. Un abbraccio a voi che ci avete ascoltato. Buon anno da Nicoletta Carbone.